Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie, l'attualità attraverso il filtro dell'animalità. Siamo a fianco degli altri animali nel cammino verso la conquista di diritti che pensiamo gli spettino in una prospettiva ecocentrica, quindi superando l'antropocentrismo che è origine di tanti disastri della nostra contemporaneità. Ogni vivente ci accompagna nel tragitto delle nostre lunghe o brevi esistenze. In questa puntata, che è la numero 720, parleremo della fuga del leone di Ladispoli, parleremo dell'ultima tigre della Malesia, parleremo di carne sintetica e parleremo della scimmia chimera, un altro esperimento agghiacciante avvenuto in Cina. Ma ci sarà spazio anche per la rubrica Animali da sé, una rubrica di cinema antispecista, e per una ricetta non violenta, vegan, cruelty free, a tema, come sempre, come ogni settimana. Speriamo di avervi incuriosito. Iniziamo la nostra puntata numero 720 con la notizia della fuga del leone a Ladispoli. Evitate qualsiasi spostamento, fate massima attenzione, un leone si aggira tra le vie di Ladispoli. È stato questo l'annuncio diffuso in provincia di Roma, nella cittadina di Ladispoli, perché ancora nel terzo millennio costringiamo animali a esibirsi nei circhi con numeri da clown triste dopo un crudele addestramento che li snatura. Il leone Kimba, prigioniero del circo Ronnie Roller, che lo stava sfruttando, durante la sera dell'11 novembre scorso è riuscito a scappare dalla sua prigione e si è aggirato per alcune ore attraversando le strade di Ladispoli in provincia di Roma. È stato filmato da tantissime persone mentre si aggirava tranquillamente per le strade. Non sembrava particolarmente aggressivo, non si sono verificate scene di panico e Ladispoli si è tinta di colori esotici e avventurosi con questa performance inaspettata del re della savana. Dopo 7 ore di ricerca, il leone è stato narcotizzato con un colpo di fucile sparato dal titolare di una società specializzata nella cattura di animali selvatici. Dunque Kimba, il leone, è stato riconsegnato a coloro dai quali aveva tentato la fuga, cioè il circo Ronnie Roller. C'è ancora un mistero su come abbia fatto a fuggire, visto che il lucchetto del cancello, a detta del proprietario del circo, era rotto e una parte delle inferriate divelte, per cui l'accusa è quella del sabotaggio di gruppi animalisti. Ma tutte queste sono illazioni, non ci sono fondamenti, non ci sono prove di nessun genere. Il gesto dell'animale comunque deve far riflettere tutti sulla crudeltà dei circhi, perché non esistono circhi buoni, perché gli animali selvatici vengono addestrati in modo severo a rispondere a determinati ordini. Quindi non si tratta poi solo di quello, non solo dei maltrattamenti, ma soprattutto della privazione della libertà, una vita vissuta in gabbia, in spazi limitati, gli spostamenti continui di città in città. E insomma, Kimba, un leone di 8 anni, ha subito per 8 anni umiliazioni, privazioni, esibizioni grottesche con luce artificiale per un pubblico pagante che per fortuna è sempre meno folto. Il sindaco di Ladispoli ha pensato bene a quel punto di vietare spettacoli con animali, il circo quindi ha dovuto andare avanti in scena senza tigri e leoni, però ha promesso che quando si attenderà a Roma, dove tale divieto non c'è, Kimba tornerà a calcare le scene. C'è poi un altro aspetto interessante su cui concentrarsi, cioè lo spettro del complotto. Trovo alcuni commenti che pensiamo siano appropriati sulla pagina Facebook di Francesco Cortonesi. I circensi praticano il complottismo ogni volta che un animale decide di darsela a gambe. Ecco i casi più noti. Nel 2012 la triste storia della giraffa Alexander, detenuta dal circo Rinaldo Orfei. Dopo una fuga nelle strade di Imola viene narcotizzata e muore in seguito alla sedazione. La colpa della fuga sarebbero gli animalisti, ma non è mai stato individuato un colpevole. Nel 2014 ancora un caso eclatante, quello dell'ippopotamo femmina di 8 anni scappata dal circo Orfei, che finisce per scontrarsi con un'automobile. L'ippopotamo muore sul colpo e di quel caso non c'è mai stato uno straccio di prova sui presunti animalisti colpevoli, eppure c'erano anche stati 2 feriti, cioè i ragazzi che erano in auto, quindi le indagini furono più che accurate. Nel 2017 ancora un caso, una tigre scappa da un circo, il circo Svezia. Per i gestori del circo si tratta chiaramente di un sabotaggio animalista, ma non ci sono stati colpevoli individuati. Sempre nel 2017 2 leoni scappano dal circo Ronnie Roller, che è lo stesso di ieri sera. E chissà se tra questi 2 leoni c'era anche Kimba. Si grida all'azione premeditata da parte degli animalisti. Di nuovo il circo Ronnie Roller pratica il complottismo già da tempo. Però non è mai stato individuato nessun responsabile. Nell'aprile poi di quest'anno è toccato all'ama Pino, che è scappato a Genova, sempre dal circo Orfei. Ancora una volta la colpa è addossata agli animalisti. Colpevoli trovati? 0. Immancabile quindi, anche questa volta riguardo a Kimba, l'accusa di sabotaggio animalista. Vedremo l'esito delle indagini. E così, in questa pantomima infinita, ancora una volta, non si può che chiedersi come sia possibile che in Italia non si sia trovato il coraggio di fare quello che è già stato fatto in altri paesi. Sono 20, infatti, i paesi che hanno vietato lo sfruttamento e l'utilizzo di animali in spettacoli di qualsiasi ordine e tipo. Fortunatamente, sempre meno pubblico sorride guardando il feticcio del re della foresta in versione ammaestrata all'interno dei tendoni da circo. E tra qualche anno è molto probabile che gli animali spariscano del tutto da quei tendoni. Come si può già ora notare, i circhi più belli e famosi, quelli che non sono in crisi, sono proprio quelli senza animali, come Cirque du Soleil, Momix, Fura del Baus, eccetera. Lì ci sono umani che fanno acrobazie e che vengono premiati per la loro capacità, per la loro abilità. Manca ancora tempo, ma si spera che sia inevitabile questo esito definitivo. A proposito della notizia di Kimba, il leone fuggito alla Dispoli, è uscita una notizia ANSA secondo la quale il gruppo astrofili di Palidoro in provincia di Fiumicino avrebbe deciso di dare il nome di La Dispoli a un ammasso di stelle che trova posto proprio all'interno della costellazione del leone, annunciando l'iniziativa con un post su Facebook. In realtà post su Facebook voleva dire tutt'altro. Il gruppo astrofili aveva pubblicato un meme dedicato al leone Kimba, anche perché un gruppo di astrofili non è certo titolato per battezzare un ammasso di stelle. Però l'uscita della notizia su molte agenzie stampa ufficiali la dice molto lunga sulla capacità di fact-checking del nostro sistema informativo. Quindi la verità su Kimba, sul circo, sul rapporto tra umani e altri animali ce la dobbiamo trovare da soli. To the clicking of time. La storia del leone Kimba ci fa fare anche altre riflessioni. È vero, il leone non dovrebbe trovarsi alla Dispoli, nemmeno in Italia, nemmeno in Europa, dovrebbe trovarsi in altri continenti. Però che spazio rimane per questi grandi animali, i leoni, le tigri, gli elefanti, anche nei continenti di provenienza? C'è ancora spazio per loro o il sedicente sviluppo umano ha tolto loro ogni possibilità di futuro, ovunque? A questo proposito ci colpisce una notizia che è uscita la settimana scorsa e che è stata divulgata dai media. Ricorderete la splendida serie anni 80 Sandokan, la tigre della Malesia? Ecco, sembra che in Malesia le tigri stiano scomparendo, tant'è che il fotografo naturalista Emmanuel Rondeau avrebbe scattato la foto in alta risoluzione di una delle ultime tigri sopravvissute. Mentre negli anni 50 si stimava che in Malesia vivessero circa 3.000 tigri, oggi la perdita di habitat, la diminuzione delle prede, il bracconaggio per il commercio illegale di parti del loro corpo e per i conflitti tra comunità locali hanno ridotto le popolazioni a meno di 150 individui. Una delle maggiori minacce per le tigri del paese sono le trappole, utilizzate dai bracconieri per catturare non solo le tigri, ma anche altri selvatici, come le prede delle tigri, da vendere poi nel mercato illegale degli animali selvatici. Poi ci sono altri fattori come la perdita di habitat, la crisi climatica, i conflitti con l'uomo, tutte cause della drastica riduzione di specie iconiche come tigre, elefante, panda, tartaruga marina e tante altre. Il WWF ha scelto proprio queste specie come protagoniste di nuovi regali solidali che fanno bene al pianeta e sono perfetti per il Natale. La campagna si chiama Proteggerle, lo stai facendo bene. Parlavamo delle staminali a proposito della carne colturale. Torniamo sul tema per raccontarvi un esperimento terribile e angosciante. La creazione di un cucciolo di scimmia nato con polpastrelli fluorescenti e occhi verdi brillanti, creato in laboratorio. È stata chiamata scimmia chimera ed è vissuta solo 10 giorni. Per questo sconvolgente risultato i ricercatori hanno modificato delle cellule staminali prelevate da embrioni di 7 giorni di macaco cinomolgo, un cercopitecide dell'Asia orientale utilizzato nella sperimentazione animale. Dopo aver ottenuto 9 linee di cellule staminali capaci di differenziare tutti i tipi cellulari, gli scienziati le hanno marcate con un colorante fluorescente. E successivamente queste cellule staminali sono state iniettate in embrioni della stessa specie al quarto-quinto giorno di sviluppo. Gli embrioni chimera risultanti sono stati quindi impiantati in una femmina di macaco che dopo 12 gravidanze ha fatto nascere 6 cuccioli vivi. Questo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Cell, che sottolinea come sia la prima volta che un simile risultato venga raggiunto nei primati. A condurre l'esperimento è stato il Guangzhou Institute of Biomedicine and Health, un team di ricerca internazionale guidato da scienziati cinesi. Questa ricerca ha implicazioni pratiche rilevanti per l'ingegneria genetica e la conservazione delle specie, ha commentato il professor Zhen Liu, coordinatore dello studio. Nello specifico, questo lavoro potrebbe aiutarci a generare modelli di scimmia più precisi per lo studio delle malattie neurologiche e per altri studi di biomedicina. Sono enormi i dubbi etici che la società civile e non solo gli animalisti stanno sollevando su questo caso. Ci si chiede ad esempio come il Comitato Bioetico Cinese abbia potuto approvare questo progetto di ricerca dopo gli scandali che si sono susseguiti negli ultimi anni proprio in Cina, scandali che riguardavano la biosicurezza dei laboratori e la ripresa di vecchi concetti eugenetici. Secondo le associazioni che lottano per i diritti degli animali, questo test avrebbe infranto tutti i regolamenti nazionali e internazionali qualora fosse stato effettuato negli Stati Uniti o in Europa, dove le norme sul benessere degli animali e la salute dell'uomo sono molto più stringenti. Creare delle scimmie chimera, infatti, viene considerato da molti scienziati occidentali un tabù, perché potrebbe essere il primo passo per costruire quello che viene definito il primo ibrido uomo-scimmia, una creatura la cui eventuale esistenza presenterebbe grandissimi dilemmi etici e ci porrebbe davanti a un futuro distopico dove i più ricchi potrebbero ricorrere alla biotecnologia cellulare per costruirsi nuovi organi su misura. Non è d'altronde la prima volta che simili esperimenti provocano clamore e dissenso. Anche considerando gli anni più recenti, sono state centinaia le occasioni di scontro tra i comitati etici occidentali, le associazioni animaliste e i laboratori di tutto il mondo dove si svolgono ancora sperimentazioni su animali. Noi, come redazione, pensiamo che non esista giustificazione alle atrocità che avvengono nei laboratori, all'incuria e al disprezzo con cui gli animali sono trattati e alla loro infinita sofferenza. Gli scienziati contrari alla vivisezione ci spiegano che ogni specie animale è molto diversa dalle altre e che le estrapolazioni dei risultati da una specie a un'altra sono inutili, nel migliore dei casi, più spesso fuorvianti e quindi addirittura dannose e di ostacolo al progresso della scienza. Ma dal punto di vista antispecista, la vivisezione non sarebbe giustificabile nemmeno se fosse davvero utile alla scienza, perché l'utilità per qualcuno non rende lecita la violenza su qualcun altro. Animali da set è la rubrica di cinema antispecista curata per Restiamo Animali da Emilio Maggio, filmologo e amico della trasmissione. Questo nuovo ciclo è dedicato agli amanti del cinema che si pongono anche questioni etiche relativamente alla condizione animale. Ed è ordinato per lemmi. Abbiamo già proposto alcuni lemmi: A come animazione, B come Baltazar, C come caccia, D come documentario. Questa settimana è la volta del lemma H come Hitchcock. Trovate tutti i lemmi andati in onda fino a questa settimana nella nostra homepage restiamoanimali.it. H come Hitchcock. Secondo il filosofo e critico cinematografico Jun Fujita Hirose, gli uccelli di Hitchcock andrebbero percepiti come animali ordinari in grado di materializzare sullo schermo cinematografico un effetto straordinario. In altre parole, la moltitudine di gabbiani, corvi e cornacchie che le agenzie di collocamento degli animali spettacolo hanno messo a disposizione del set o dei set diventano uccelli hitchcockiani, effetto che qualunque spettatore è in grado di comprendere prima e meglio degli specialisti di settore abituati a sviscerare il senso e il significato delle immagini in movimento affidandosi a una lettura meramente formale delle stesse. Nel cinema, in particolar modo nei film di Hitchcock, ogni individuo può essere in grado di partecipare alla straordinarietà del mondo, soprattutto quando ad essere messa a repentaglio è l'ordinarietà umana minacciata dalla straordinarietà della natura animale. In questo senso l'universo intero si trasforma in un set ed è lo stesso set a rappresentare plasticamente le gerarchie con cui il modello organizzativo capitalista struttura la divisione del lavoro. Gli uccelli hitchcockiani pertanto rovesciano l'arcaico conflitto tra mondo animale e mondo umano in modo tale che ad essere minacciata è la stessa specie umana. Gli uccelli sono fuori, sono liberi, mentre gli uomini sono reclusi in una gabbia materiale e simbolica. Questa ribellione corrisponde soprattutto a una ribellione simbolica e come tale sconvolge l'ordine naturale delle cose, riconoscendolo come reale. In tutti i film di Hitchcock c'è questo tentativo di rimettere in discussione l'ordine etico-morale antropocentrico che struttura l'intera civiltà umana. Lo spettatore, cioè, così come l'umano, non ha scampo. È per questo che i film di Hitchcock non hanno mai un finale, cioè non si concludono con la fine del film. Lo spettatore, una volta uscito dalla sala, può subire la stessa sorte vista e percepita sullo schermo, alza gli occhi al cielo e vedendo un gabbiano che volteggia nell'aria, lo percepisce come una possibile minaccia. La straordinarietà di corvi e gabbiani nel film Gli uccelli è data proprio dalla indeterminatezza della moltitudine con cui costituiscono la minaccia al genere umano, quella minaccia che rende così instabile la nostra stessa esistenza. Come afferma Massimo Donà in un bellissimo numero della rivista Fata Morgana dedicato interamente alla cineanimalità, negli uccelli hitchcockiani dovremmo cominciare a riconoscere non tanto una diversa idea dell'animalità, quanto piuttosto la metaforizzazione di un comportamento che, per quanto totalmente estraneo al mondo animale, gli animali infatti non hanno l'abitudine di asserire la gente senza motivo, proprio nel venire attribuito ad essere viventi non parlanti, sembra riuscire ad evocare quella non altrimenti definibile insensatezza che può sempre irrompere nella nostra ordinata e spesso prevedibile esistenza. settimana abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà. E anche questa ricetta, come tutte le altre, sarà a tema. Stavolta abbiamo chiesto allo chef di dedicare un piatto speciale al cucciolo di scimmia chimerico nato in Cina, vissuto solo 10 giorni. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Prendendo in prestito e adattando il titolo italiano del film con Bruce Lee del 72, al grido di «Dalla Cina con rancore», dedichiamo la ricetta di oggi alla piccola scimmietta chimera, figlia e vittima della sperimentazione animale. Ingredienti per 6 persone, per il pan bao, per realizzare circa 12 panini, sono 300 g di farina tipo 0, 160 g di acqua tiepida, un cucchiaio di zucchero di canna, 8 g di lievito di birra, un cucchiaio di olio di riso oppure altro olio dal gusto leggero e del sale. Sciogliete il lievito nell'acqua tiepida assieme allo zucchero e lasciate attivare per qualche minuto. Disponete la farina a fontana e unite il lievito, quindi impastate. Aggiungete l'olio e il sale e continuate a lavorare fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Formate una palla e chiudetela in un contenitore. Lasciate lievitare in un luogo asciutto fino al raddoppio. Recuperate l'impasto e dividetelo in 12 pezzi formando altrettante palline. Lasciate riposare ancora per 30 minuti. Successivamente schiacciate ogni pallina con le mani per ottenere dei dischi di circa un centimetro di spessore. Piegate ogni disco a metà formando delle mezzelune. Mettete un pezzetto di carta forno fra le due metà della pasta per evitare che si attacchi. Coprite con un panno e lasciate lievitare per un'ora. Una volta pronti, fate cuocere in vaporiera su un foglio di carta forno per 15 minuti. Lasciate intiepidire rimuovendo il pezzetto di carta forno al centro e farcite a piacere. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola «Se vuoi vivere sano, cucina vegano». Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 721 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.